e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Buongiorno a voi e benvenuti. Ciao Deborah, sei pronta per una nuova settimana? Direi di sì, perché sarà piuttosto impegnativa per noi. Intanto giovedì e venerdì, lo preannunciamo, saremo in diretta da Rimini all'IT Forum, al caldo speriamo, parleremo di finanza sotto il sole, quindi insomma cercheremo di rendere lieto questo argomento per tutti. Di non squagliarci. Esatto. Insomma. Allora, in attesa di incontrarci a Rimini, raccontateci come siete stati questo weekend. Sono stati 2 giorni più di cuore o più di denari? Ve lo chiedo perché una ricerca molto divertente che ho letto proprio prima di entrare in onda spiega che lunedì mattina si ha bisogno di qualche chiacchiera in più per iniziare bene la giornata e quindi la settimana. E allora ho pensato di girarvi questo invito a fare 2 chiacchiere con noi. Potete naturalmente mandarci anche un WhatsApp al 349-238-6666. Leggeremo. Esatto. Allora, invece io che cosa ho notato? Ho notato un'altra notizia questa mattina. Intanto siamo praticamente a metà maggio e già si intravede la fine dell'anno scolastico. Per qualcuno il weekend sarà stato all'insegno dei ripassi, magari per salvare qualche materia, qualche famiglia impegnata anche con i figli appunto che in ansia. Questo. Allora, lo sapete che il mercato delle ripetizioni vale quasi 1 miliardo di euro, tutto completamente o quasi sconosciuto al fisco? Lo segnala questa mattina Repubblica sul suo sito. Addirittura questa notizia è stata messa in prima pagina, è un'indagine della Fondazione Einaudi. Allora, anche in questo caso chiedo ai nostri ascoltatori, mamme e papà un po' indispettiti per questo problema, di scriverci in un SMS o su WhatsApp al 349-238-6666. Quanto spendete ogni anno in ripetizioni? Quanto costano allora? In che modalità le pagate? Siate sinceri, noi facciamo un piccolo sondaggio e magari approfondiremo nei prossimi giorni. Allora, apriamo la nostra rassegna stampa con più che una notizia, una raccomandazione per chi sta guidando. Secondo uno studio pubblicato da Yam Ophthalmology, i finestrini laterali della macchina, al contrario del parabrezza, sono risultati molto meno efficienti nel fermare i raggi UV. Quindi è bene che il guidatore e gli altri passeggeri si proteggano dal sole anche in macchina per gli occhi e la zona del contorno. È importante indossare occhiali con lenti omologate, ricordiamo, in grado di filtrare gli UVA e gli UVB con marchio CE. Per la pelle il consiglio è quello di affidarsi ai solari adatti al proprio fototipo, per la quantità da utilizzare l'equivalente di un cucchiaio da minestra per il viso e poi invece, se volete fare le cose per bene, una pallina da golf per il corpo. C'è chi l'ha fatta stamattina, chi la farà questa sera e c'è chi proprio non ci pensa a farla. Deborah, sto parlando della doccia. Lo facciamo perché arriva dall'America una sorta di vademecum delle cose da non fare. Questa lista, che è stilata da una dermatologa che in America va molto di moda, si chiama Patricia Ferris, ci insegnerebbe a fare la doccia dalla testa ai piedi nel modo corretto. Tra i vari suggerimenti c'è quello di evitare di avvolgere i capelli nell'asciugamano. Già, no? Sbagliamo qua tutti. Esatto, perché questa abitudine causa stress e danni alla nostra chioma. Meglio eliminare delicatamente l'eccesso di umidità con un telo pulito, senza strofinare troppo, e tamponare. E poi non mancano le raccomandazioni per i nostri piedi, che devono essere lavati, quello è certo, con sapone neutro meglio, e soprattutto ben asciugate nello spazio tra le dita, soprattutto in questo periodo dell'anno in cui si suda un pochino di più. E per finire, una curiosità sulla spugna: una volta che l'avete usata, non lasciatela lì appesa in bagno, per evitare che i batteri, no, si tuffino nella vostra spugna, quindi lavatele, appendetela bene per farla asciugare. E dalla doccia, Deborina, passiamo alla tavola. Il tempo che trascorriamo a mangiare però non deve essere fasto, sia veloce, della serie che chi va piano va sano e va lontano e rimane pure magro. Infatti numerose ricerche confermano che masticare lentamente, come ci dicevano le nostre nonne, migliora la digestione, contrasta la pancia gonfia e aiuta addirittura a dimagrire. E sembra che masticare aiuti anche a potenziare la memoria. Ti ricordi, aveva commentato con noi questa ricerca il professor Piero Barbanti. Quindi ricordatevi che la posata va posata, ma non solo. Il consiglio è quello di dedicare almeno mezz'ora di tempo a colazione, pranzo e cena, di fare bocconi piccoli, contare fino a 30, perché ogni boccone dovrebbe essere masticato almeno 30 volte prima di essere deglutito, e aggiungiamo masticare con la bocca chiusa. Allora, ti dico che tutte le raccomandazioni che tu hai dato stamattina già le sai, le so, ma le sbaglio tutte, perché mangio velocemente, mi avvolgo i capelli nel turbante dell'asciugamano e li stresso tutti. Però ti asciughi i piedi e lavi la spugna. Certamente. E quindi abbiamo fatto un passo avanti. Benissimo. Wow. Sentiamo se ne hai fatti tu invece dal punto di vista dei denari. Non so se le notizie che racconterò ti interessano, qualcuna sì però. Allora, intanto per quello che riguarda la borsa, settimana parte male, perché abbiamo già un ribasso di Milano di un punto percentuale, Parigi perde un punto, Francoforte per fortuna è chiusa, per cui non perde niente, abbiamo Londra in calo dello 0,7%, dello 0,37%, i titoli più pesanti di Milano, meno 4 punti per Exor, Unicredit meno 3, Ubibanca meno 3, meno 2 punti e mezzo per Yux e Net-a-Porter, e calano di un punto e mezzo ancora una volta tutti i titoli delle banche popolari, bene invece Telecom che guadagna 3 punti e mezzo, insieme a Buzzi Unicem più 1,92%. Lasciando la borsa, che è sempre molto movimentata, ci sono le ipotesi che invece stanno circolando in materia di bonus bebè e più in generale di incentivi a favore delle famiglie. Beatrice Lorenzin, ministro caro alla nostra trasmissione, ministro della Salute, ha parlato di interventi shock addirittura per rispondere ai dati demografici italiani che sono molto preoccupanti. Non nascono più bambini. Esatto. Rispetto al bonus bebè si è parlato addirittura di raddoppio. Ribadiamo, sono solo proposte e ipotesi, anche perché qua tanti soldi per fare tutti questi provvedimenti non ce ne sono. Noi faremo chiarezza domani a Cuore Denari ricordando quali sono i requisiti attuali e le modalità ancora in vigore per richiederlo. Ah, questa notizia l'abbiamo scoperta questa mattina e ci è piaciuta non poco. Ci sarebbero delle novità in arrivo per chi viaggia sui treni ad alta velocità. A Benone. Esatto, dai. Anche perché è stata una questione che abbiamo sollevato proprio noi, anche noi, lunedì scorso, a Cuore e Denari. Allora, gli abbonati dell'alta velocità potranno usufruire di maggiori tutele in caso di disservizi da parte delle aziende di trasporto, che non è che siano tante in Italia qua, ecco, quando parliamo di alta velocità. Allora, il Consiglio delle Autorità di Regolazione dei Trasporti ha approvato in via definitiva e per la prima volta in Italia misure riguardanti i diritti che i titolari di abbonamenti possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi ferroviari appunto ad alta velocità. Lo ricordiamo ancora, settimana scorsa avevamo dato voce ad alcune segnalazioni di abbonati ad Italotreno che lamentavano un trattamento meno vantaggioso pur avendo sottoscritto un abbonamento, trovandosi ad esempio impossibilitati a prenotare i treni in alcuni orari. Allora, per far chiarezza anche su questa novità in arrivo da parte del Consiglio dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti, noi torneremo sicuramente questa settimana anche su questa notizia. Domani è martedì, come ogni settimana in edicola con il Sole 24 Ore trovate il nuovo numero del manuale di educazione finanziaria I tuoi soldi. Questa settimana c'è un tema molto interessante, investire in arte. Allora io ve lo dico già, ve lo chiedo già, se siete collezionisti o vi incuriosisce questo mondo, cominciate a scriverci le vostre domande a cuoredenari@radio24.it. Noi domani affrontiamo questo argomento, una piccola parte del nostro risparmio, se lo volessimo mettere in un'opera d'arte, come facciamo ad orientarci? Non è necessario spendere grandi cifre, ma anche piccoli importi. Avremo con noi degli esperti. Intanto sul sito del Sole 24 Ore c'è un quiz per scoprire quanto ne sapete di investimento nell'arte. Stiamo condividendo il link anche dai nostri profili Facebook e Twitter e poi domani voi ce lo racconterete. Chiudiamo questa rassegna stampa di denari lanciandovi un invito, non niente di particolarmente pesante, insomma è leggero, è un invito. Vi invitiamo a segnalarci se sul vostro territorio ci sono delle iniziative, piccole o grandi, che riguardano i soldi e l'educazione finanziaria. Allora tutti non fanno che lamentarsi che gli italiani non sanno nulla in materia finanziaria, quindi c'è questo grande dibattito su tutte le iniziative di educazione finanziaria, ci riempiamo un po' tutti la bocca con questo concetto, ma andiamo poi a vedere che cosa si fa sul territorio. Le segnalazioni da parte vostra andranno a comporre una nostra agenda di denari e poi amplificheremo volentieri queste segnalazioni nelle nostre puntate e scopriremo insieme che sul territorio in italiano le iniziative in questo senso sono molte, molte più di quanto si potrebbe immaginare, per cui vogliamo naturalmente raccontarli in modo tale che chi non le conosce poi le conosca e vada magari a seguire queste iniziative. A tal proposito, parte proprio oggi a Milano il Money Farm Investment Boutique. È una kermesse, un'iniziativa che dura addirittura 2 mesi, dedicata ad educazione finanziaria, innovazione, imprenditoria e cambiamento. C'è un calendario davvero ricco di eventi gratuiti e aperti alla città che Money Farm, che è una società indipendente di consulenza finanziaria online, mette a disposizione appunto nei 200 metri quadrati della Money Farm Investment Boutique. Paolo Galvani è presidente di Money Farm, buongiorno e benvenuto. Buongiorno, grazie. Buongiorno. E insomma, buongiorno. Tante iniziative per 2 mesi che naturalmente non vi distoglieranno dal vostro core business e dalla vostra attività. Come vi è venuto in mente appunto di rendere Milano così vivace da questo punto di vista? È ovvio, Milano è la città della finanza, ma addirittura voi state pensando, anzi state allestendo un vero e proprio museo dell'educazione finanziaria che animerà Milano nei prossimi 2 mesi. Galvani, di che cosa si tratta? Ma allora, per noi l'educazione finanziaria è un punto centrale, no? nella nostra proposizione, nel nostro progetto. Manifarm punta ad aiutare le persone a gestire le finanze e i propri risparmi in maniera semplice, responsabile, in maniera efficiente. E per fare tutte queste cose, chiaramente, conoscere quello di cui sta parlando è fondamentale. E quindi l'idea di costruire un posto fisico che per 2 mesi rappresenti in maniera semplice quelli che sono concetti tante volte abbastanza complicati del mondo della finanza, ci è sembrata la cosa più naturale proprio per aiutare le persone. E abbiamo preso ad esempio il tema del costo degli investimenti, l'importanza della diversificazione di un portafoglio, l'importanza dell'orizzonte temporale. Ma farete tante cose anche per i bambini, Galvani, ho visto. Sì, sì, sì. Accanto poi al tema dell'educazione vera e propria, ci sono poi 2 mesi di eventi che vanno, ad esempio, dalla programmazione insegnata ai ragazzini delle scuole elementari e delle scuole medie, a un financial breakfast il sabato mattina dove discutere insieme degli avvenimenti della settimana. Insomma, creare un nuovo spazio dove accanto ai temi di carattere finanziario ci possono anche essere temi di carattere culturale. Certo. Allora, dicevo prima, Galvani, che il tema dell'educazione finanziaria in questo momento davvero è quello fra i più gettonati, un po' sulla bocca di tutti. Voi con che tipo di spirito vi siete voluti avventurare anche su questo terreno? So che su Money Farm appunto fate già un grande lavoro per rendere abbastanza praticabile il gergo finanziario appunto a tutti quanti, a tutti coloro che utilizzano la vostra piattaforma di consulenza finanziaria indipendente, ma perché avviare appunto un percorso così strutturato? Ma allora, due motivi. Da un lato è sempre più evidente che per riuscire a passare un messaggio bisogna cercare di farlo nel modo più semplice e più diretto. E quindi la tecnologia aiuta un sacco, però tante volte servono anche degli esempi concreti, serve anche la possibilità di toccare con mano, no? questo tipo di conoscenza. E quindi l'idea di costruire all'interno di uno spazio fisico delle installazioni che ti permettano di capire meglio quello di cui stiamo parlando, abbiamo pensato potesse essere un modo più facile e più diretto per divulgare questo tipo di messaggio. Certo, quindi allora questo è stato il motivo. Questo è stato il motivo. Io purtroppo non ho moltissimo tempo da darle, ma sono certa che gli ascoltatori che sono interessati appunto hanno capito l'essenziale. Vi ricordo allora ancora che questo museo di educazione finanziaria organizzato da Money Farm che animerà Milano per 2 mesi, aperto tutti i giorni dalle 9.30 alle 20 fino all'8 luglio. Tutti gli eventi in programma presso lo spazio di via Fiorichiari saranno gratuiti e aperti al pubblico. Tante le iniziative, Galvani, poi magari fra un mesetto ci risentiamo e ci racconterà come sta andando. Senza dubbio, grazie, con molto piacere. Grazie. Grazie a voi. Buona giornata. Buona giornata, adesso intanto andiamo a sentire che cosa succede sulle strade, sulle italiane, sulle autostrade. Poi vi anticipo già che parleremo di mercato immobiliare e di come far valutare il prezzo giusto della nostra casa. Tra poco. Cuore e denari. Conti, conti, conti, che sei la mia passione. Io parlo, parlo del mattone. Allora, intramontabile Rita Pavone con il ballo del mattone. Allora, perché abbiamo scomodato la grande piccola Rita stamattina? Perché la settimana scorsa è stato diffuso il rapporto immobiliare 2016 realizzato dall'Agenzia delle Entrate in collaborazione con l'ABI, l'Associazione delle Banche Italiane. È un rapporto che tutto sommato contiene buone notizie perché il mercato è in ripresa. Nel 2015 si è registrata una crescita delle compravendite nel mercato residenziale del 6,5%. Nel 2014 avevamo avuto una crescita del 3,5%. Eravamo reduci da 3 anni di cali. Tante volte, Nicoletta, abbiamo parlato, di mattone un po' in crisi. Allora, le operazioni totali di compravendita sono state 449.000 appunto nel 2015, è un dato che rimane ancora molto lontano dal picco delle 877.000 che era stato toccato nel 2007. Salgono le compravendite e sono ancora in calo i prezzi. Allora, analizzando questo rapporto che contiene molti dati interessanti che riguardano anche ad esempio il panorama degli affitti, ci è venuto in mente di fare un punto su come si fa ad attribuire il valore giusto alla propria casa. Per esempio, se ci fosse la necessità di venderla e vorremmo farlo ovviamente al miglior prezzo. O se al contrario siamo interessati ad un acquisto, ma il prezzo che ci chiedono non ci convince tanto. Esatto, ci sembra un po' troppo alto, ma insomma magari, a parte voler fare l'affarone, ma proprio magari ci risulta un pochino non convincente questo prezzo per tante ragioni. Allora, da chi possiamo andare a chiedere qualche consiglio che sia oggettivo? Esiste il mondo dei periti immobiliari, che in genere vengono consultati dalle banche per stimare il valore di un edificio in relazione al mutuo che deve essere erogato appunto per la compravendita. Ma un perito può essere consultato anche da un privato? Direi di sì. Come si fa? Dove li troviamo? Questa mattina ci aiuta la dottoressa Silvia Cappelli, vicepresidente di Assovib, che è l'associazione che riunisce, la società che riunisce le principali società di servizi di valutazione immobiliare italiane. Ho detto tutto correttamente, dottoressa Cappelli? Buongiorno e benvenuta. Buongiorno, tutto correttissimo. Eccoci, perfetto, 10 lode. Dai, iniziamo bene. Avevo studiato. Il mattone ci piace. Assovib, insieme all'ABI, tra l'altro, nel dicembre scorso, ha varato le linee guida sulle valutazioni immobiliari ed è un documento che ha l'obiettivo di dare un contributo al recepimento della famosa direttiva europea sui mutui, quella di cui abbiamo parlato le settimane scorse, che ha fatto tanto discutere perché introduce il pignoramento più snello delle case in caso di morosità grave. Detto questo, dottoressa Cappelli, che cosa contengono queste linee guida? Che importanza hanno per i cittadini che comprano o acquistano una casa? Beh, la valutazione immobiliare nel corso di questi anni credo abbia giustamente assunto un'importanza crescente, perché perizie corrette e affidabili sono elementi fondamentali di un mutuo a tutela della banca, ma a tutela soprattutto del privato. E questo sia nel momento in cui si desidera richiedere un finanziamento in banca, ma anche appunto, come dicevate voi, per una qualunque azione di acquisto o di vendita di un immobile. In questo contesto è indispensabile, fondamentale, rivolgersi a un perito indipendente che sia in grado di stimare l'abitazione in maniera competente, trasparente. È sempre meno un'attività che è possibile per un professionista gestire nei ritagli di tempo, perché la valutazione immobiliare ha assunto un'importanza crescente anche per il legislatore. Le regole e i requisiti sempre più ci vengono dettati dall'Europa. Infatti, la supervisione anche dei principali istituti bancari si è spostata sulla Banca Centrale Europea, le indicazioni ci arrivano ad esempio dalla direttiva mutui. Questa direttiva è stata recepita in Italia da parte del settore bancario con le linee guida dell'ABI che avete citato, ha contribuito anche l'associazione società di valutazione Assovib. Possiamo dire che dal punto di vista delle metodologie di valutazione l'Italia si collochi come un elemento di eccellenza ormai nel panorama bancario e europeo. È interessante questo, dottoressa Cappelli, la interrompo per chiedere, perché in realtà leggevo qualche commento che riferiva di un mercato italiano delle valutazioni ancora arretrato, non adeguatamente moderno, invece si sta mettendo al passo con l'Europa. In che cosa era considerato arretrato? Per il fatto, come diceva lei, che magari i periti facevano l'attività di perizia immobiliare un po' come secondo lavoro rispetto ad altre attività, perché so che è un settore animato da geometri, architetti, che appunto magari hanno l'attività professionale come principale attività e poi la perizia viene in un secondo momento. È così, sempre più è importante che anche la pratica si allinei alla teoria. Quindi dal punto di vista delle metodologie siamo ormai a un livello di eccellenza. Esistono degli operatori seri, affidabili sul mercato, mi riferisco in particolare alle società, e questo è il mio consiglio per tutti: dovendo rivolgersi per avere una valutazione immobiliare in un momento così importante come l'acquisto di un'abitazione, rivolgersi a chi utilizza sia le valutazioni ma è anche in grado di mettere in piedi dei processi dimostrabili e degli strumenti a supporto del singolo professionista. Quindi esistono valutatori certificati che oggi fanno la valutazione in maniera non marginale e quindi in maniera specialista, ma poi esistono delle società che danno degli strumenti, mettono a supporto dei team di specialisti, degli strumenti per il controllo qualità. Quindi è importante che dove si dice che ancora l'Italia è un po' indietro è nel fatto che non tutti sono allineati a livello delle best practice. Quindi ci sono degli operatori affidabili, indipendenti, è importante rivolgersi a certo. quelli. Allora, dottoressa Cappelli, fra un po' devo andare in pausa, dobbiamo andare in pausa perché abbiamo il giornale in radio. Solo in 30 secondi, poi questo argomento lo approfondiamo dopo il GR. Il ruolo del perito è fondamentale, almeno il primo perito nel quale io mi sono imbattuta era quello che mi ha mandato la banca quando ho chiesto il mutuo, naturalmente, quindi il perito voleva effettivamente fare una valutazione dell'abitazione in relazione poi al mutuo che mi doveva essere erogato. Voi lavorate prevalentemente per le banche, ma potete fare anche questo lavoro per me o per Nicoletta se noi vi chiamiamo massimo appunto come consulenti indipendenti? Assolutamente, e non solo stimando il valore dell'immobile, ma anche poi dando un giudizio sul mantenimento di questo valore dell'immobile nel tempo e esprimendo un giudizio sull'assenza di quei vizi o ad esempio di mancanza di conformità urbanistica o catastale che poi possono avere degli impatti sulla su questo investimento così importante. Esatto, che dottoressa fare. Cappelli, la devo interrompere perché sente la musichetta, c'è il giornale radio, ritorniamo tra pochissimo. Ciao, sono Enrico Ruggeri. Tutti i giorni a Il Falco e il Gabbiano vi racconto storie di vite straordinarie che con un colpo d'ala hanno saputo cambiare il loro destino e quello di tante persone. Vi aspetto alle 15.30 tutti i giorni su Radio 24. Sono Maria Latella e la domenica mattina finora potevamo incontrarci in TV. D'ora in poi invece ci troveremo anche su Radio 24, ogni domenica mattina alle 10, per parlare di donne perfette, imperfette, aspiranti alla perfezione e di come ci vedono gli uomini. Vi aspetto ogni domenica mattina alle 10 su Radio 24. Ascoltaci anche in Digital Radio. State ascoltando un programma offerto da Camorriste, dal 24 maggio su Crime Investigation, Sky, canale 118. Cuore e denari. Take me back, I've been away too long. Take me back to my home, sweet home. Home, sweet home. Naturalmente una casa è tanto più dolce quanto... come dire, ha un valore per noi che è certamente importante dal punto di vista affettivo, anche perché, cara Nicoletta, la casa nostra la scegliamo anche con quello spirito, no? Certo. E un pochino di prezzo viene fatto anche da quella componente là, è molto importante. Ne parlavo proprio nel periodo in cui io compravo casa con le persone dalle quali mi sono fatta dare qualche suggerimento. Detto questo, a parte il prezzo, il pezzo del prezzo che viene fatto dalla componente affettiva, c'è poi ovviamente tutta la condizione oggettiva dalla quale dobbiamo muovere anche naturalmente per attribuire il valore giusto ad una casa. Allora, con noi questa mattina c'è Silvia Cappelli, che è vicepresidente di Assovib, l'associazione che riunisce le principali società di servizi di valutazione immobiliare italiane. L'abbiamo interpellata questa mattina perché è uscito il rapporto dell'Agenzia delle Entrate elaborato con l'ABI, l'Associazione delle Banche Italiane. Abbiamo un mercato in ripresa, ma il tema è il prezzo della casa sulla quale magari abbiamo messo gli occhi per poterla acquistare. È quello giusto oppure il venditore, insomma, sta facendoci una proposta di vendita che magari a noi non convince tanto? Allora, da chi possiamo andare per capire se il prezzo, se ok, il prezzo è giusto? La dottoressa Cappelli ci stava aiutando a muoverci nel mondo dei periti immobiliari che generalmente, dottoressa Cappelli, come dicevamo prima, sono consulenti per il settore bancario, ma in realtà possono essere interpellati anche in via indipendente, appunto, dai privati. Le volevo leggere un messaggio, un paio di messaggi in verità, appunto, arrivati dai nostri ascoltatori su un tema che volevo affrontare in questo momento. Rita ci racconta: i periti immobiliari, se lavorano per le banche, a tutela delle banche che dovrebbero concedere il mutuo, spesso fanno perizie un po' al ribasso. Ad esempio, ci dice Rita, casa valutata dal perito 158.000 euro. Visti gli annunci pubblicati per abitazione, stessa categoria, stessa zona, 195.000 euro, venduta 180.000. Rita dice: se ci si fosse fidati del perito, è certo che dal punto di vista del venditore, come dire, non si sentiva il venditore molto tutelato dal perito, ma il compratore sì. Però allora le chiedo: quanta incongruenza c'è generalmente, se di incongruenza si può parlare, tra le perizie del perito sui valori degli immobili e i prezzi di mercato? Perché questo è il tema centrale, dottoressa Cappelli. Commento su questo. Grazie, e così proviamo anche a magari a fare un po' di chiarezza in questo ambito, perché giustamente l'acquisto poi, come dicevate, comprende anche una componente affettiva, ma il valutatore immobiliare deve cercare di stimare nella maniera più oggettiva possibile, e le perizie puntano a stimare il valore di mercato dell'immobile, che poi dovrebbe avvicinarsi e dovrebbe coincidere con i prezzi reali. Diciamo che le differenze non si riscontrano, o non si dovrebbero riscontrare, se si usano metodologie conformi agli standard, che si basano sul confronto diretto proprio con i prezzi di mercato. Mentre in passato abbiamo visto perizie che si discostavano da criteri oggettivi e che quindi portavano poi a sovravalutazioni o sottovalutazioni. Anche le sovravalutazioni sono particolarmente pericolose, perché poi sono un rischio per il privato, possono portare a un sovraindebitamento, no? Possono portare poi alla possibilità di trovarsi in situazioni di insolvenza. Quindi anche se magari ad un cittadino appunto non sembra, in realtà la sottovalutazione forse è, come dire, più vantaggiosa della sopravvalutazione proprio ai fini dell'erogazione del credito. Un discorso un po' complesso, però dottoressa Cappelli, la lascio concludere. Ecco, volevo solo aggiungere che una cosa diversa sono poi invece i valori che troviamo sugli annunci delle agenzie immobiliari. Quelli sono prezzi di offerta, non sono i prezzi di mercato, non sono i valori di mercato. Quindi poi lì bisogna considerare uno spazio per la trattativa. In questi ultimi anni abbiamo visto ad esempio uno sconto medio di circa il 15% rispetto ai valori degli annunci. Certo. Le faccio sentire un commento di Arnaldo da Palermo, che si è candidato ad intervenire all'800240024. Arnaldo, un architetto, buongiorno. Buongiorno a voi, complimenti per la trasmissione. Grazie, ci dica. E niente, io sono un architetto, faccio sia il libero professionista che il costruttore, e sono stato spesso vittima delle perizie inadeguate dei miei colleghi. Addirittura vittima? Per quale motivo? Assolutamente sì, le spiego perché. Guardi, io sono davanti a casa mia, l'ho appena venduta. L'ho venduta per 255.000 euro, stimato dal perito della banca con una bella scheda a quadrettini, spunto sì e spunto no, 205.000 euro. La cosa più bella, lo sa qual è? Io faccio il costruttore, ho costruito delle ville signorili in località Mondello, valutate dal perito 400.000 euro, pagate l'una 600.000 euro. Dico, io non so qual è il giochino, sicuramente le banche poi mettono il doppio del valore come ipoteca sulle case. Quindi il mercato paga e decide quello che è il valore di un immobile. Io lo dico per esperienza. Arnaldo, la ringrazio per la sua osservazione, però come ci diceva appunto la dottoressa Cappelli, in realtà c'è anche chi fa valutazioni molto differenti verso l'alto appunto degli immobili. Che cosa vogliamo commentare rispetto a quello che ci ha raccontato Arnaldo, dottoressa Cappelli? Sono certa che comunque siano considerazioni che voi conoscete molto bene, che vi sono state già mosse magari in altri contesti, che siano fuori da quelli radiofonici. Vorrei solo dire che è importante affidarsi sicuramente a degli operatori che possano poi garantire anche dei controlli, delle verifiche, quindi sempre bisogna fare riferimento a reali prezzi delle compravendite, attuare dei processi di controllo, non lasciare il singolo professionista solo senza l'utilizzo di strumenti, quindi che possano anche supportarlo nel suo lavoro, l'utilizzo di banche dati, l'utilizzo di strumenti anche informatici che oggi ci sono e possono aiutare ad avere più facilmente un riferimento col confronto diretto dei prezzi di mercato, rivolgersi a specialisti. Certo. E che appunto abbiano dietro dei team di supporto che possano permettere di arrivare alla determinazione più obiettiva possibile. Infatti, del valore di mercato, che poi però deve escludere le componenti soggettive ed affettive. Esatto, al caso di Arnaldo, magari lui ha venduto questa casa a 250.000 euro perché ha trovato anche un acquirente che si è innamorato di quell'abitazione, un pezzo di prezzo è stato un po' anche da questo, no? Certo. Poi magari effettivamente andando ad analizzare tecnicamente tutta la casa, poi Arnaldo non l'ho vista, sto facendo ovviamente una considerazione rispetto ad una situazione che non conosco, ovviamente 205.000 euro magari è il valore oggettivo appunto stimato dal perito, poi c'è il pezzo di prezzo fatto dall'acquirente che quella casa la voleva, o altre situazioni. Dottoressa Cappelli, prima di salutarla, un altro paio di domande per le quali le chiedo una risposta veloce. Se mi serve un perito domani mattina, esiste un elenco di valutatori certificati dove posso andare a cercare? Poi c'è una domanda di Nicoletta. La puoi fare, la facciamo già, certo. Facciamo già, sì. Sì, e anche un po' quanto devo aspettarmi di spendere? Ci dia un ordine per la vostra perizia, insomma, cado molto dall'alto, siete particolarmente cari oppure per tutte le tasche? Guardi, il prezzo va confrontato con l'importanza del lavoro. È assolutamente un prezzo marginale rispetto all'investimento che si va a fare, che spesso è l'investimento di una vita, e quindi ha una incidenza talmente minima che sicuramente vale la pena spendere 10 euro in più e rivolgersi a un operatore serio. Esistono degli albi di periti certificati, ci sono tre tipi di certificazione, uno nazionale, una certificazione ISO, due che ci vengono dal mondo europeo e internazionale. La cosa più facile è rivolgersi a una società di valutazione che a sua volta può garantire di utilizzare periti certificati, ma anche di selezionare il valutatore più indicato per la finalità della valutazione che bisogna andare a fare, perché un mutuo è diverso da un acquisto, è diverso da una eredità, è diverso da altre finalità che si potrebbero dover trovare di fronte chiunque di noi durante il corso della propria vita. Dall'altra parte anche con la tipologia dell'immobile, perché c'è la villa, c'è il monolocale, ci sono anche immobili particolari, quindi anche poi il prezzo della perizia dipende. Ecco, non si può dire faccio un'attività che costa un tot all'ora, dipende da tutta la condizione anche dell'immobile che si va a peritare e ad analizzare, immagino, quindi da quello che capisco. Senta, è importante anche per individuare un canone d'affitto il lavoro del perito? Assolutamente, assolutamente, quindi è importante per individuare il canone di affitto di mercato, ma anche ad esempio per prendere una decisione se di fronte a un immobile di proprietà conviene affittarlo piuttosto che conviene invece venderlo, che tempi medi di vendita ci si può aspettare per quel tipo di immobile. Ecco i tempi, contesto. Anche interessanti. Infatti. I tempi di vendita. Bene, allora vi auguriamo tanta lunga vita a questa associazione naturalmente e un po' meno conflitti appunto con chi ritiene non sempre pertinenti i prezzi che stabilite, dottoressa Cappelli, ma naturalmente poi per tutte le cose c'è sempre un po' di dibattito. Grazie molte per essere stata con noi, buon lavoro. Noi adesso... Buona giornata. Adesso Deborah ti chiedo un aiuto, di darmi una mano proprio. Eccola per qua, introdurre il tema di oggi. Mi di si cuore. È giusto rotta un'unghia. Brava, e su quella faccio poco. Allora tu adesso, e potete farlo anche voi da casa, prova ad afferrare senza usare il pollice. Dimmi cosa devo fare. Quella penna, quella matita che hai lì davanti. Vabbè, lo fai fatica, sì, come faresti a scrivere? Sembro una gallina e non ce la faccio. Secondo esercizietto anche per Filippo Aureggi. Ma... in regia la parte tecnica che ci fa grandi sorrisi. Proviamo a darci la mano. Sì, io e te. Sempre, tu devi sempre, il pollice è morto, caduto. Ok. Prova. Ci strofiniamo alla grande, ma non niente. Stringiamo. Allora, questi sono due brevissimi, facilissimi esercizi che ci fanno capire che senza pollice la nostra mano lavorerebbe molto male. E quindi proviamo a guardarlo con maggiore... così, come dire, affetto, questo dito che è sicuramente il più tozzo, a guardarlo non è assolutamente slanciato rispetto alle altre dita, è il meno bello, così cortino, così. Ci sono anche poi pollici che guardano all'insù, pollici che sembrano molto dritti, sulla forma del pollice si sono scritti fiumi di parole, ma noi non tanto della forma del pollice e della sua lunghezza, cosa che se ne è discusso abbondantemente negli ultimi giorni sui giornali, perché Megan Fox ha il pollice più corto. Allora, vero, sì. Vabbè, insomma, può capitare. Tutti i comunque bella, questo non basta che ci sia, e che faccia il suo dovere, perché il pollice, come l'alluce per il nostro piede, ha una grande responsabilità. Ne parliamo oggi con la nostra esperta che è tornata a trovarci, la dottoressa Simonetto Della, chirurgo della mano Alpini di Milano, che fa anche rima. Buongiorno dottoressa. Nicoletta, buongiorno, che piacere sentirvi. Allora, le diamo anche una bella stretta di mano, ma dobbiamo usare il pollice, perché insomma senza pollice, senza questo dito, la nostra mano veramente avrebbe una vita molto difficile. Molte delle azioni che noi compiamo abitualmente senza questo dito sarebbero impossibili o molto difficili. Questo ci fa capire quanto sia non solo importante, ma quanto sia importante mantenerlo bene, quindi anche ascoltare i segnali che il nostro pollice ci manda. Sono sono di solito segnali dolorosi, a volte di un dolore un po' addormentato che si manifesta solo quando facciamo alcuni movimenti e che tendiamo magari a sottovalutare. Quindi noi oggi le affidiamo il nostro pollice, perché affidandole il pollice le affidiamo un po' la salute, l'equilibrio e il benessere delle nostre mani. Dottoressa Odella, è così? Perché mi affidate esattamente quasi la metà delle azioni che compiamo con le nostre mani tutti i giorni. La metà delle azioni che facciamo con le nostre mani le svolgiamo proprio grazie all'aiuto del nostro pollice, quindi ha proprio ragione, senza il pollice siamo veramente un po' impacciati nelle nostre azioni quotidiane. Dottoressa, ha un compito molto importante, ma proviamo a individuare i nemici del nostro pollice, sicuramente lo sottoponiamo a numerosi stress, no? Questo sicuramente, soprattutto anche con le nuove tecnologie, sappiamo che abbiamo l'uso di smartphone, di tablet, il mouse, la tastiera e quindi l'utilizzo meccanico del nostro pollice è sicuramente più sollecitato rispetto a un tempo. Poi noi donne che abbiamo delle attività manuali a casa, chi di noi non fa qualcosa in casa, insomma sicuramente abbiamo uno stress ancora più grande per questo dito così importante. E in questo caso ad essere maggiormente sollecitati sono sicuramente i tendini flessori che ci fanno piegare il pollice, che ci permettono di opporre le dita uno all'altro, quindi di afferrare gli oggetti, ma anche i tendini estensori ed abduttori che ci permettono di allargare il pollice rispetto alla mano e prendere per esempio in braccio un bambino appena nato. Quindi anche gli estensori possono essere implicati in questi processi infiammatori che diventano poi dolorosi e invalidanti durante il giorno. Allora, dottoressa Odella, ci impresti il suo occhio clinico e ci guidi in una sorta di autotest di valutazione. Allora, prendiamo il nostro pollice, muoviamolo, ma come facciamo? Quali sono i movimenti da fare per capire se il suo stato di salute è ottimale oppure se inizia ad avere qualche problema dovuto ad una eccessiva usura, ma anche agli anni, perché anche gli anni pesano sui nostri pollici. Sicuramente. Allora, iniziamo a guardarlo. Uh-huh. Lo possiamo guardare. Se abbiamo un pollice con un colorito della cute rose uguale alle altre dita della mano, già è un buon segno. Così come se non lo vediamo gonfio, tumefatto. Se invece dovessimo vedere che in alcune parti, soprattutto alla radice del pollice, quindi più verso il polso, risulta essere più gonfio, più arrossato, già questo può essere un campanello d'allarme. Se poi è il pollice di una donna ed è il periodo della menopausa, un terzo di noi viene colpita da quella che si chiama rizoartrosi, cioè dall'artrosi della radice del pollice. L'artrosi è un denominatore comune sia per il pollice che per l'alluce. Le due dita, no, così importanti rispettivamente della mano e del piede, possono infatti essere colpite da questo problema, dottoressa. Sì, l'artrosi in realtà non è di per sé un processo patologico, è un invecchiamento fisiologico delle nostre articolazioni. Gli anni passano, usiamo le articolazioni che vanno incontro proprio ad un'usura, consumiamo la cartilagine. Alle volte, insomma, poi sono le rughe della cartilagine, possiamo definirla così. Dai, sì, che è una mi buona piace. Definizione, mi piace molto. E oltre ad avere delle rughe possiamo avere anche un po' una deformità delle ossa, quindi le ossa possono essere un po' più grosse, le articolazioni del nostro pollice quindi possono essere più grosse e possono comparire come delle piccole neoformazioni che sono dure e dolorose al tatto a livello delle articolazioni, cioè dove riusciamo a piegare le nostre ossa, e questi sono i noduli artrosici che sono tipici proprio dell'invecchiamento articolare. Ma oltre ad essere antiestetici, alle volte sono anche dolorosi, e allora quando sono dolorosi sicuramente bisogna curarli, perché altrimenti ci limitano nelle nostre funzioni quotidiane. Ma finché l'artrosi non è dolorosa, non è invalidante, non ci limita nelle nostre azioni, di per sé è un processo fisiologico che colpisce tutte le articolazioni del nostro corpo. È vero che l'articolazione trapezio metacarpale, che è quella alla radice del pollice che ci permette i movimenti di opposizione, quindi i prensili della mano, quelli che colpisce... ho fatto fare a Deborah prima, tanto per scaldarla, voglio tenere in forma. Deborah doveva fare senza pollice. Colpisce addirittura il 15% della popolazione al di sopra dei 30 anni, quindi è un'articolazione che invecchia più frequentemente, un po' perché è un'articolazione recente, quindi noi diciamo che ha un'evoluzione non ancora completa, un po' perché tutti noi usiamo tantissimo le mani e noi sappiamo che l'artrosi è legata anche all'usura, quindi all'utilizzo. Allora, dottoressa Odella, tra poco Deborah ci leggerà i principali indici di borsa? Ma prima di lasciare la parola, io vi propongo il quizzettone di oggi. L'abbiamo rispolverato. Allora, le dita hanno affascinato non solo la dottoressa Odella, perché la mano, lo ricordiamo, è l'unico, no, è proprio a un chirurgo dedicato, tanto è complicata, ma per alcuni artisti le dita sono, e soprattutto le mani, sono diventate una fonte di ispirazione. Se il dito medio sembra aver conquistato un posto d'onore nel centro di Milano, Deborah, tu lo fai, no? E ci riferiamo alla scultura di Maurizio Cattelan in Piazza Affari, c'è un pollice che per le sue dimensioni monumentali non passa inosservato. Dove potete vederlo? In quale città? 800 24 00 24, se volete chiamarci e raccontarci dove si trova questo pollice. Se volete invece occuparvi del vostro pollice, che magari può darvi qualche problema, noi siamo qua con la dottoressa Odella, che ci suggerirà anche degli esercizi per le nostre mani, per tenerle in forma, per non farle solo lavorare, ma per regalare anche alle nostre mani un po' di benessere, se lo meritano. Indici. Quale sarà il futuro di Milano? E di Roma? E Torino? Napoli? Bologna? Fino al 29 maggio non perdere la programmazione speciale di Radio 24 per le elezioni amministrative. Reportage, interviste, inchieste e approfondimenti quotidiani dei nostri inviati per capire, confrontare, interrogarsi e scegliere chi guiderà le nostre città. Da Roma a Milano, passando per Torino, Bologna e Napoli, viaggia con noi verso le elezioni più discusse del 2016. Segui le amministrative di Radio 24. Dai valore al tuo voto. State ascoltando un programma offerto da Camorriste, dal 24 maggio su Crime Investigation, Sky, canale 118. Cuore e denari. Eccoci, siamo tornati insieme, parliamo di mani, ma in realtà parliamo oggi del dito che governa la salute delle nostre mani, parliamo del pollice, ci sono tanti luoghi comuni su questo dito e anche tanti modi di dire, avere il pollice verde, girarsi i pollici, non mollare di un pollice o pollice verso, ma anche pollice come unità di misura inglese, il pollice e le dita delle mani e la mano tutta hanno un chirurgo dedicato, noi ce l'abbiamo in linea, la dottoressa Simonetto del Pini di Milano. Dottoressa Odella, allora, abbiamo capito quanto sia importante il nostro pollice, vogliamo preservare la sua salute, mantenerlo efficiente a lungo negli anni e soprattutto non avere dolore. Possono capitargli una serie di faccende, ma noi dobbiamo cercare di individuare i segnali di malessere precocemente. Allora, se il pollice fa male alla base, potrebbe essere un po' colpa degli anni, dell'artrosi, dottoressa Odella. Sì, ecco, così. Si parla infatti di rizoartrosi, ma come si manifesta? Quali sono gli accertamenti diagnostici ed eventuali cure? Esiste ad esempio una cura chirurgica nel caso il problema diventasse veramente serio? Certo, ma per fortuna faccia una BC. Anche tante cure conservative prima. Beh, insomma, le indagini diagnostiche, una semplice radiografia, quindi una radiografia della mano, già da sola ci può dire se siamo in presenza di un'artrosi di questa importante articolazione del pollice o se invece il dolore è da ricercare in altre cause. Quindi già con la semplice radiografia noi possiamo fare una diagnosi se correlata alla sintomatologia clinica, quindi se c'è il dolore. Un'altra cosa che ci deve porre in allarme, del motivo per cui più frequentemente i pazienti, le persone si rivolgono al medico, è che quando c'è questa artrosi c'è un tale dolore che viene ridotta anche la forza di presa della pinza tra l'indice e il pollice e quindi facciamo fatica ad aprire un barattolo, ad aprire il tappo della bottiglia dell'acqua, a girare le chiavi di casa nella toppa, quindi siamo molto limitati nelle nostre funzioni quotidiane e questo sicuramente è un campanello di allarme importante. Perché possiamo dirlo che la rizoartrosi non compare all'improvviso, no? No, assolutamente, ecco, infatti... è un lento progredire, poi ha delle fasi di riacutizzazione, abbiamo delle fasi in cui il pollice è molto rosso, è molto dolente, molto gonfio, così come fa l'artrosi che è un andamento di solito capriccioso, alle volte si riaccende, poi lentamente si spegne e magari lascia in pace il dito per tantissimi mesi se non per degli anni interi, quindi non bisogna allarmarsi eccessivamente, pensare di essere condannati al dolore nel momento in cui compare. Posso metterlo a riposo, dottoressa? Potrebbe, certo, potrebbe aiutarlo? Sicuramente, un po' di riposo riposo funzionale con un tutore durante la notte, che si chiama Rizzo Splint, proprio perché è dedicato per questo tipo di articolazione, è sicuramente un ottimo aiuto, così come dei cerotti medicati che rilasciano un principio attivo antinfiammatorio per via transdermica, sicuramente può aiutare. Se volessimo andare oltre, potremmo fare anche un trattamento infiltrativo. Il trattamento infiltrativo più usato un tempo era sicuramente quello con il cortisone, un pochino di cortisone toglie l'infiammazione nelle fasi più acute, ma oggi abbiamo una sostanza ancora più valida e più rispettosa della nostra articolazione che è l'acido ialuronico. L'acido ialuronico è normalmente presente nelle nostre articolazioni, sempre. Solo che con l'invecchiamento e l'infiammazione viene degenerato, degradato, quindi perde un po' delle sue funzioni. Noi altro non facciamo che rimettere da fuori quello che all'interno dell'articolazione viene rovinato dal passare del tempo e ha tantissime funzioni positive. Ha un'azione di viscosupplementazione. È una cosa simile a quando si olia la serratura, no? Esattamente, ecco. È un olio del motore praticamente. Oltre a questo toglie il dolore, oltre a questo rallenta l'invecchiamento articolare, oltre a tutto ciò riduce anche i processi infiammatori. Quindi ha tante azioni benefiche che raggiungono il loro apice a 10 settimane dall'ultima infiltrazione, di solito se ne fa una settimana per 3 settimane, e che danno dei risultati che rimangono stabili da 6 a 12 mesi, quindi con una durata maggiore rispetto a quella del cortisone, che si esaurisce in un tempo un pochettino più breve rispetto all'acido ialuronico. E in più è un protettore della cartilagine, quindi ha tanti effetti positivi e toglie il dolore e l'infiammazione, e frequentemente con delle sole cure conservative si riusciamo a venire a capo del problema, a salvare il pollice, che può essere colpito anche da altri problemi, come ci racconta Vincenzo da Napoli. Buongiorno Vincenzo, benvenuto. Buongiorno a lei. Allora, io credo di aver anche avuto la risposta. Il mio problema è pollice a scatto. Parliamo però della mia moglie, 53 anni, menopausa, e ha dolore e difficoltà nell'articolazione. L'ortopedico al quale ci siamo rivolti ha proprio diagnosticato pollice a scatto. Sì. È stato molto chiaro nella sua diagnosi, e Vincenzo ha sottolineato: il problema è di mia moglie, 53 anni, in menopausa. Anticipo che tra poco col dottor Speciani parleremo anche di ormoni, a cui diamo, no, una serie di colpe, anche quelle che non hanno. Dottoressa Odella, il dito a scatto, il pollice può bloccarsi? Certo, si blocca quando lo pieghiamo. Sciopera, insomma. Sciopera, sì, si ferma, soprattutto perché poi per riestenderlo bisogna aiutarsi con l'altra mano, ed è una manovra alquanto dolorosa. Ma perché succede? Perché c'è una infiammazione della guaina che riveste il tendine che ce lo fa piegare, cioè il flessore, che fa fatica a scorrere al di sotto di un ponte di fibre che c'è a livello della regione palmare alla base del pollice, e quindi, dato che si riduce lo spazio di scorrimento, si incastra nella posizione di flessione. È dovuta ad un'infiammazione ed è dovuta probabilmente ad un eccessivo utilizzo, a un sovraccarico meccanico di questa struttura tendinea. La terapia è conservativa, diciamo che di solito nel 70% dei casi con un trattamento infiltrativo col cortisone, un'infiltrazione prima e una a distanza di 15 giorni, nella maggior parte dei casi riusciamo a risolvere questo tipo di problematica. Soltanto nel restante 30% dei casi è necessario ricorrere al trattamento chirurgico, che si esegue comunque in un'anestesia locale, quindi è un intervento ambulatoriale e che prevede poi soltanto 15 giorni di punti di sutura, ma si muove immediatamente appena si esce dalla sala operatoria. Dottoressa Odella, noi siamo qua a Cuore Denari, e quindi Francesco ci chiede: ma sono cure costose? Quelle a cui accenna la dottoressa Odella? No, perché sono cure che vengono erogate dal Servizio Sanitario Nazionale. Io sono in un ente pubblico, molto felice di esserci, e noi per fortuna possiamo erogare questo tipo di trattamento in Servizio Sanitario Nazionale. Basta la richiesta del medico curante. Dottoressa Odella, qualche tempo fa, leggendo una news in apertura di programma, ho letto una notizia che riguardava le mani e abbiamo dato qualche suggerimento di stretching per mantenere le nostre mani in salute. E sono arrivate tantissime richieste da parte dei nostri ascoltatori e la cosa mi ha stupita un po', perché solitamente noi suggeriamo esercizi di riscaldamento, di allungamento per i muscoli delle nostre gambe, per le braccia, cerchiamo di prepararci bene all'attività sportiva, ma le mani le trascuriamo parecchio. Allora, dottoressa Odella, ci vuole dare qualche indicazione? E sono davvero utili questi esercizi di stretching alle nostre mani per regalare e mantenere benessere alle nostre articolazioni, a questo organo così complicato, perché la mano è un vero e proprio organo? È vero, è proprio così, ed è quello che è maggiormente rappresentato a livello della nostra corteccia cerebrale per quanto è innervato e per quanto è dotato di un movimento fine. Certo che possiamo fare della ginnastica, soprattutto la mattina quando ci svegliamo, che abbiamo le mani magari un po' gonfie perché abbiamo dormito durante la notte. Noi sappiamo che di notte, dormendo, i tessuti molli tendono a gonfiarsi, le articolazioni rimangono ferme per lungo tempo e quindi, soprattutto quando gli anni passano, abbiamo bisogno magari di risvegliare un po' le nostre articolazioni. Se sono gonfie, possiamo eseguire dei massaggi dall'apice del dito fino alla sua base, come per svuotare, una specie di linfodrenaggio fatto a casa, fatto da soli. E poi quindi inizio dall'unghia praticamente, sì, vado giù con dei pizzicottini. Sì, o anche basta strisciare i polpastrelli dell'indice del pollice della mano controlaterale, come per svuotare i vasi che sono rimasti fermi per tanto tempo, perché le vene si svuotano e rimandano il sangue verso il cuore con la pompa muscolare, quindi muovendo le nostre articolazioni. Una volta che abbiamo fatto questo piccolo esercizio, se vogliamo possiamo immergere le nostre mani in una bacinella d'acqua tiepida e sale in modo tale da riattivare bene la circolazione, aprendo e chiudendo le nostre dita, magari strizzando una spugna naturale. Questo è un ottimo esercizio, riattiva la circolazione periferica, attiviamo la pompa muscolare, muoviamo le articolazioni e quindi rimettiamo tutto in moto per affrontare poi bene la giornata senza avere quella sensazione di rigidità alle dita delle mani. Allora, ricordiamoci quindi questo massaggino, questa sorta di linfodrenaggio alle nostre dita e poi la bacinella, acqua tiepida, aggiungiamo il sale. L'aggiunta del sale, dottoressa Odella, è importante perché? Perché richiama i liquidi al di fuori e quindi serve ancora di più a sgonfiare le nostre dita delle mani nel caso in cui fossero un po' tumefatte. La domanda me l'aspettavo, ho detto come mai non arriva, e invece è arrivata. Ringrazio l'ascoltatore al 349-238-6666. Dottoressa, fa male scrocchiare le dita? Fare così? Fa male, sì, non bisognerebbe farlo perché si rischia poi di andare a danneggiare magari le articolazioni. Certo, capita a tutti noi, lo facciamo, ma bisogna cercare di non superare l'arco di movimento consentito, cioè se ci sono l'8% della popolazione, di noi me compresa, ha una condizione articolare di iperlassità, cioè vuol dire che a noi è concesso muovere oltre misura le articolazioni. Ecco, fare questo movimento è dannoso per le articolazioni. È uno stress inutile. Noi tra poco parleremo proprio dell'ormone dello stress. Se sentite che è un pochino fuori norma, se pensate che abbia raggiunto dei livelli pericolosi, iniziate a prenotarvi. Intanto si è prenotato John da Udine per rispondere al nostro domandone di oggi. Dove si trova questo grande pollice che si può ammirare? È in una città? John, dove si trova? Buongiorno. Buongiorno. Come sta il suo pollice? A Parigi, bravissimo John, è la risposta esatta. Il quizzettone ideato da Laura Vanossi. Esatto, l'artista Cesare Baldaccini, che l'ha costruito nel 65 ancora, ma è esposto dal 1994. Io non l'ho visto perché sono stato a Parigi prima e quindi non ho avuto occasione di vederla in diretta, ma insomma è imponente, 12 metri di altezza, una cosa mostruosa. Bisogna... Il pollice che realmente è la riproduzione esatta del pollice dell'artista, poi fra l'altro. Che sarà un bel pollice, quindi potete andarlo magari a cercare anche su internet. E John, a questo punto bisogna organizzarsi un viaggio a Parigi. Mi pare giusto. Sembra che i pollici miei regano perché sono proprio usurati, assolutamente. Allora, se avete bisogno di altri consigli, la dottoressa Odella è a vostra disposizione. Scriveteci a cuoredenari@radio24.it e naturalmente mettete un pollice, un like sulle nostre pagine. Questo ci fa sempre piacere. Dottoressa Odella, lo faccia anche lei. L'abbraccio. Nicoletta, l'aspetto grazie. Presto. Grazie molte. E adesso noi andiamo a sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade e poi parliamo di ormoni. Cuore e denari. Allora, non andiamo a caccia di fantasmi, ma di ormoni. Quando tiriamo in ballo gli ormoni, spesso lo facciamo per sollevarci dalle nostre responsabilità, per trovare un po' una giustificazione. Abbiamo l'umore storto, è un problema ormonale, nostro figlio è intrattabile, e beh, sai, adolescente, sono gli ormoni, sono partiti, e ingrassiamo, non è mica colpa nostra, sono gli ormoni. In realtà le cose sono un pochino più complesse di quanto possiamo pensare. Tutti gli ambiti della medicina sono da tempo impegnati a comprendere meglio il funzionamento di questa grande famiglia di messaggeri, così possiamo definirli, che permettono all'organismo di comunicare con tutte le sue parti. Allora oggi abbiamo pensato di iniziare un viaggio alla scoperta dello straordinario mondo degli ormoni, che influenzano naturalmente il funzionamento del nostro corpo e anche quello della nostra mente. Ci facciamo aiutare da un amico di Cuore Denari, il dottor Attilio Speciani. Buongiorno dottor Speciani, bentornato. Buon ormone anche a lei. Assolutamente, poi oggi è una giornata primaverile bellissima, quindi gli ormoni fluttuano. Come saranno felici. Senta, tra l'altro, dottor Speciani, gli ormoni proteggono il cuore delle donne, no? Tanto che si dice fino a quando in età fertile il cuore delle donne è protetto dagli ormoni, poi mi raccomando, controllatevi. Per un po' anche quello dei maschietti, ecco, perché anche i maschietti ne hanno un po'. Infatti, io volevo proprio dire questo, non è solo una prerogativa femminile. Insomma, no, noi, anzi, mi piace molto questa domanda perché va un po' a toccare una specie di bilanciamento equilibrato tra positivo e negativo, tra yin e yang, cioè anche un maschietto nel pieno del suo vigore sessuale ha per fortuna anche degli ormoni femminili. Se li avete pure voi. Dirigono la nostra vita questi, io li ho definiti messaggeri, non so se è corretto, ma mi sembrava che leggendo un po' tutto quello che fanno e considerando tutti i compiti che hanno, potremmo paragonarli proprio a dei veri e propri messaggeri del nostro, attraverso cui il nostro organismo riesce, no, a mantenere in equilibrio e sa quello che deve fare. Sì, e non solo, ci sono degli aspetti, giusto adesso toccando il tema degli estrogeni, che uno tende ad ascrivere solo al femminile, perché è documentato il fatto che se i maschietti hanno un calo degli estrogeni partono con degli atteggiamenti compulsivi obbligati, non di tipo sessuale, ma ad esempio ricerca di cibo, movimento compulsivo, nevrosi, eccetera, e invece una riproduzione lieve di equilibrio di quello che serve riporta l'organismo verso una condizione di maggiore tranquillità. Quindi a volte questo aspetto del sentirsi come obbligati a fare delle cose perché c'è una componente ormonale, in realtà talvolta può essere modulato semplicemente con un po' di consapevolezza. Nell'esempio che faceva prima mi viene in mente quello che va a sbattere in macchina perché dice: sai, ero in quinta a 180 all'ora in autostrada e non sono uscito dalla curva. Certo, ma come sei arrivato lì? Hai creato le condizioni perché l'ormone poi facesse il suo mestiere in maniera eventualmente eccessiva. Quindi dirigono la nostra vita ma non ci tengono in pugno, questo è il messaggio. No, possiamo fare molte cose possono essere aiutate. Allora, ne parleremo di ormoni più volte nel corso della nostra delle puntate, ne analizziamo alcuni qua e là e io partirei, se lei è d'accordo, dall'ormone dello stress, che così è stato ribattezzato, sì, il cortisolo, perché i suoi livelli aumentano quando siamo un po' stressati. Ed è l'ormone a cui attribuiamo anche, no, tante colpe. Sì, di gonfiori, di fastidi, cioè devo dire che il cortisolo è una cosa fantastica perché interviene quando noi dobbiamo difenderci, fa parte dal punto di vista evoluzionistico di una azione in cui uno dice devo combattere, devo lottare, ed ecco che aumento l'energia, aumento la forza, aumento una serie di elementi, almeno per un breve periodo, poi dopo iniziano gli effetti negativi quando è troppo ripetuto nel tempo, no? Quando lo stress si mantiene costantemente. E quindi ad esempio ci sono degli aspetti ormonali, ormonali classici sulla parte del trattenimento di liquidi, piuttosto che l'aumento della glicemia, piuttosto che altro che vorrei non toccare oggi, ma ad esempio l'aumento di cortisolo può portare a delle azioni compulsive, come ad esempio la ricerca di alcol. Ma perché? Perché se questo è l'ormone dello stress, l'alcol è un farmaco che seda parzialmente lo stress, o almeno questo è stato scoperto fin dal Neolitico, quindi da quando abbiamo iniziato a svilupparlo, e quindi l'organismo tende a cercare una compensazione allo stress, come cercare di calmarsi. Avviso ai naviganti, ci sono dei mezzi molto più comodi, ecco, e tranquilli. Avviso ai naviganti, diamo delle indicazioni per prendere dal cortisolo solo il buono, perché ad esempio elevati livelli di cortisolo nel sangue sappiamo che possono determinare un aumento del grasso addominale, che in più è dannoso anche per la salute rispetto all'ADIP depositati in altre zone del corpo. Quindi se il cortisolo ce l'abbiamo e partecipa a tante funzioni, che cosa dobbiamo fare noi per rendercelo amico, dottor Speciani? Ma guarda, qui ci sono tutti gli aspetti, come quelli cognitivisti, per cui il fatto, anche durante una fase di stress, il fatto di poter fermarsi e fare 20 secondi di respirazione prolungata riesce ad interferire efficacemente. Sono documentati questi aspetti, ad esempio, di alcuni aspetti meditativi, ma minimi, può essere fermarsi, riuscire a riprendere il pensiero, e questo evita l'incessante stimolo sulla corteccia surrenale, cioè quindi sono elementi particolari. Il fatto di mantenere un apporto adeguato fin dalla prima colazione, ben bilanciato con carboidrati e proteine, ad esempio, interviene riducendo la necessità di produzione di cortisolo, per cui ne serve meno e ci aiuta a difenderci, perché già degli altri ormoni sono stati prodotti per aiutare le nostre capacità difensive. Quindi vedi che due scelte, come tiro il fiato, anche se sono dentro lo stress inizio a ragionare meglio. Tra l'altro quando siamo stressati ce ne accorgiamo, anche perché respiriamo, il nostro respiro si fa corto. Esatto, pancia non si muove, respiriamo solamente nella parte alta del torace, questo già ci dà un'indicazione. Quando percepiamo situazioni di questo genere, fermarsi, respirare, guardare in giro qualcosa e riprendere l'attenzione e ricordarsi che se questa cosa va avanti per più giorni bisogna che dal mattino dopo si inizi a rifare finalmente una prima colazione sensata, cioè se uno sa di attraversare un momento, ci sono gli studenti che stanno per arrivare a fare gli esami, no? In questo momento, la possibilità di interrompere ad esempio la sequenza di studio ogni 45 minuti per farsi un giretto di 5 è uno degli elementi più importanti per mantenere l'efficienza mentale e fisica nel corso della nostra preparazione ad un esame. Ecco, quindi è un suggerimento, dottor Speciani, molto semplice ed efficacissimo, perché poi è dimostrato, provato ogni 45 minuti fare questo, no? Questo giretto. Dare nuovo ossigeno in senso lato al nostro organismo, e parlo di fisico e di mente, che come tutte le cose semplici non viene fatto. Invece io inviterei proprio i nostri ascoltatori da oggi a provarlo, a mettersi, no, queste, un po' una sveglietta ogni 45 minuti, provare ad alzarsi, fare un giretto se si può fare, logico che se uno fa l'autotrasportatore deve guidare magari è più difficile, e suggerirlo anche ai nostri ragazzi. Iniziamo a farlo noi e i vantaggi ci saranno. Dottor Speciani, lasciamoci con questa promessa. Vuole aggiungere un dettaglio in più prima di salutarci? Che un minimo, quando uno deve fare un'interruzione, un bicchiere d'acqua, perché spesso ci si disidrata in queste condizioni, e un pezzettino di un frutto fresco di stagione sono gli elementi migliori per poter riprendere con serenità. Allora, iniziamo a farlo insieme ogni 45 minuti, se non altro ci pensiamo. Grazie dottor Speciani, grazie per essere stato con noi. Noi ci sentiamo come sempre domani alle 10:30 e intanto fra 45 minuti ricordatevi un giretto, un bicchiere d'acqua, e pensate a Nicoletta e a Deborah che vi aspettano domani alle 10:30 per una nuova puntata.